Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti cari gastronauti e cari radioascoltatori. Ebbene, oggi andiamo in Sardegna, andiamo a cibovagare in Sardegna in un'area molto particolare, suggestiva, con grosse sorprese che andremo così a conoscere, sorprese dal punto di vista turistico, paesaggistico e soprattutto anche gastronomico ed enologico. Bene, quindi un'area completa per un viaggiatore, per un gastronauta, appunto perché offre tutte queste possibilità. Andiamo nel Sulcis Inglesiente. Allora, proprio per parlare, per definire questo territorio, probabilmente a molti suonerà un po' strano, molti non lo sapranno ben identificare sulla carta. Allora ce lo facciamo spiegare dall'assessore provinciale del turismo Marinella Grosso. Buongiorno Marinella. Buongiorno Davide, buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori. Senta Marinella, ci definisce un po' questo territorio? Che le devo dire? Io chiaramente sono una persona di parte perché è il mio territorio, è una terra meravigliosa che lei conosce molto bene. Il Sulcis Inglesiente è il sud-ovest della Sardegna, infatti è uno slogan che noi utilizziamo molto, è quello è spesso, è che la vacanza in Sardegna è il sud-ovest. È una terra che a mio avviso sta molto a magliare perché ha di tutto da offrire al turista. Noi abbiamo la storia delle miniere, noi siamo conosciuti diciamo principalmente per quello, per il passaggio del tonno di costa, per il Carignano che è un vino dal color rubino di una, come posso dire, di una bontà unica. E siamo conosciuti per queste cose. Ecco, lei ha dato tutta una serie così di suggestioni, noi ad una poi, quando lasceremo lei, le andremo a approfondire tutte, dal tonno al vino, alla gastronomia, al territorio, alle miniere, quindi andremo ad approfondire tutto, però voglio chiedere a lei soprattutto qual è il periodo migliore per poter venire nella vostra terra? Sinceramente? Sì. Io se fossi un turista avrei qui nei mesi di aprile, maggio e settembre. Secondo me sono i periodi più belli, aprile e maggio perché in concomitanza con la pesca del tonno e quindi insomma si vive questa tradizione, la storia della pesca del tonno e quindi anche la sua lavorazione. È un periodo particolare, una terra tutta fiorita con profumi e sapori che riescono poi a riportare alle menti questa tradizione enogastronomica. Ecco, noi ora ci interessa particolarmente settembre, perché appunto settembre i nostri... perché è chiaramente il periodo della vendemmia, quindi il mosto, l'uva, il vino. Infatti noi stiamo lavorando molto per lanciare i periodi di spalla, ecco, del balneare, proprio con tutte queste cose qua, soprattutto con l'enogastronomia, che a nostro avviso va veramente messa in risalto nel nostro territorio e diciamo che lei l'ha fatto più di una volta e la ringraziamo per questo, ecco, ha saputo apprezzare tutte queste bontà che il nostro territorio offre. Ecco Marinella, un'ultima cosa, un posto suggestivo, un luogo magari da lei preferito, poco conosciuto, per i nostri gastronauti. Allora, io sto andando in un posto, adesso mi sto recando in un posto per fare un sopralluogo perché da diversi anni stiamo organizzando Carignano Music Experience, che è una manifestazione organizzata dentro le cantine proprio nel periodo di settembre, un momento artistico associato alla degustazione del vino di un piatto tipico. Sto andando a fare un sopralluogo in un piccolo borgo che lei non conosce ma avrò il piacere di farglielo conoscere, che si trova nell'entroterra di San Giovanni su Erdiu. San Giovanni su Erdiu sta tra l'isola di Sant'Antioco e Carbonia. È un piccolo borgo, tutto rifatto, ricostruito alla vecchia maniera, con i mattoni in fango, la paglia, e a 50 metri ci sono le famose Domus Dianas, le case delle streghe. Guardi, è una cosa meravigliosa. Io sono stata lì un'altra volta per fare un altro sopralluogo. Penso che quel posto abbia un'energia particolare, un piccolo borgo organizzato con case vacanze, per pochi, ecco, per pochi io lo consiglierei. Bene, grazie a Marinella Grosso, assessore provinciale del turismo. Grazie a te Davide Paolini, a presto. A presto nel Sulcis Inglesiente. Bene, abbiamo sentito parlare di tonno, e ovviamente il tonno significa molte cose, significa affumicati, significa salati, significa appunto tutta una serie di prodotti straordinari che vengono così lavorati in questa zona. Allora noi vogliamo parlarne con Ferdinando Fois di Sant'Antioco, l'azienda si chiama Solchi. Buongiorno Fernando. Buongiorno a lei. Allora, questo è il grande momento del tonno. Quali prodotti, ecco, lei ci racconti, dal tonno, quanti prodotti si possono ottenere? Ma dal tonno possiamo avere diversi prodotti. Uno, con la affumicatura abbiamo il tonno affumicato. Secondo, possiamo fare il musciame, che è il filetto del tonno, che lo facciamo dal bodano, che è il pezzo di carne che sta sopra la ventresca del tonno. Poi dal tonno facciamo le botarghe, che sono il caviale del tonno, lavorate col sale, pressate, e perciò diventa un ottimo prodotto. E poi dal tonno facciamo le conserve del tonno, che lo si divide in quattro parti: il tonno, poi c'è la buzzonaglia, che sono le parti interne vicino alla spina dorsale, poi c'è la ventresca, che è la parte più pregiata, essendo grasso di pesce, contiene molti omega 3, e poi abbiamo il tarantello, che è la parte della codella bianca del tonno. Se io le dicessi che preferisco il tarantello alla ventresca? Fa un'ottima scelta, perché la ventresca è, come le dicevo prima, la parte più nobile del tonno, in quanto già per quanto riguarda gli omega 3, il tonno rosso ne contiene molti di più del tonno pinna gialla. Certo. In più la ventresca, essendo una parte molto grassa, che sono grassi di pesce, contengono molto più omega 3 e perciò è molto più salutare in questo punto di vista. Diciamo che la ventresca è la parte della pancia, quella dove il pesce diciamo sta in basso al pesce, quindi per questo probabilmente, perfetto, perché subisce magari tutto quello che c'è di buono nel mare. Volevo chiederle un'altra cosa: la buzzonaglia, che è quella parte particolare, appunto, che potrebbe parte scura, sì, dove c'è più affluenza di sangue nel tonno, ecco, vicino alla parte la spina dorsale, che è la parte più saporita per noi, perché noi amiamo i sapori forti, ci piace più. Ecco Fernando, diciamo che molta gente quando vede la buzzonaglia storce la bocca, ma è un condimento straordinario per la pasta questo. Con la buzzonaglia si fa una grande pasta. Sì, si fa una grandissima pasta e si fa una grandissima insalata. Senta, buzzonaglia e cipolla. Io vado pazzo per la trippa di tonno. Ecco, Ubelu, come lo chiamate? Belu, come lo chiamate? Sì. Ecco, diciamo che la trippa è difficile da trovare, perché è ben poca quella che c'è, diciamo, a disposizione. In effetti diremmo che è uno stomaco di ogni tonno, perciò se un tonno pesa 400 kg lei avrà soltanto uno stomaco, mentre invece se sono 10 tonni da 50 kg, faccio per dire, ne troverà 10, perciò è molto rara. È come molto raro il cuore del tonno, che è saporitissimo e favoloso. Bene, Fernando Fois ha dato una lezione di tonno, cari gastronauti, cari radioascoltatori, avete sentito appunto tutte le parti del tonno, addirittura anche come vengono utilizzate. Grazie a Fernando Fois, Solchi Affumicati di Sant'Antioco, buongiorno, buongiorno e a presto. Buongiorno, tante grazie. il gastronauta. Eccoci di nuovo in viaggio in Sardegna, appunto nel territorio del Sulcis Iglesiente. Bene, abbiamo già sentito pesce, soprattutto pesce, abbiamo sentito il tonno, ma abbiamo sentito che ci sono anche dei luoghi da esplorare completamente inediti, poco conosciuti. Ma dico, vino, tonno, però dico, in questo territorio ci sono anche ben altre cose. Ed ora parleremo di pomodoro, addirittura parleremo di questo prodotto così diffuso e così anche consumato in questo paese. E andiamo a Santa Margherita di Pula, alla cooperativa appunto che prende il nome dal luogo, da Gianni Picci. Buongiorno Picci. Buongiorno. Voi siete super specializzati nel pomodoro, addirittura so che ne producete 9 tipi, è così? Sì, esattamente. Produciamo circa una decina di tipologie. È forse la gamma più completa che si possa trovare sul mercato. Beh, penso proprio così. Produciamo veramente dal classico insalataro al classico pomodoro a grappolo, sino ai prodotti più particolari di nicchia come il fragolino, il minuetto, oppure il classico pomodorino di Sardegna che è più conosciuto con il nome di camone. Sai che il camone costa veramente molto caro a Milano? Lo troviamo molto caro. Io vorrei una curiosità: a quanto parte dalla vostra cooperativa il camone al chilo? Bisogna vedere innanzitutto le tipologie di confezionamento, bisogna vedere la tipologia del prodotto e poi varia ovviamente in base da mese a mese. Certo, anche al produttore possono arrivare, dipende, da 70 centesimi a 2 euro, dipende dal periodo. Pensi che a Milano si trovava a 8-9 euro, quindi non le dico altro che sì, percorso sì, sì. Fa questo pomodoro. So quali sono poi i ricarichi. In verità sì. Ci sono tutta una serie di servizi come il confezionamento, la rintracciabilità, i controlli su analisi che generalmente la grande distribuzione mette in atto per garantire il prodotto poi al consumatore. No, io le parlo di negozi di ortofrutta, quelli che io chiamo bulgari. Vabbè, chiusa la parentesi. Volevo chiederle, ma come mai, perché è nata questa, diciamo, specializzazione vostra in tante varietà di pomodoro? Cosa c'è? L'acqua? C'è una terra particolare? Guardi, in verità, allora, questa cooperativa è nata dalla fusione di due cooperative. Appunto, la cooperativa Santa Margherita, che come detto lei, prende nome dal luogo dove è ubicata, è la cooperativa Terresole. Sono state costituite la Terresole nei primi anni 80, la Santa Margherita nell'87. Quando abbiamo iniziato a lavorare, quindi fine anni 80, si coltivavano pochissime varietà, non come adesso, quindi si coltivava il camone, che allora era il vero camone, e l'insalataro. Che cosa è successo? Che poi queste varietà si sono inflazionate un po' sul mercato, quindi noi abbiamo puntato poi su tutto sulla qualità, quindi siamo andati a proporre al mercato altri tipi di pomodoro, quindi diciamo che ci siamo specializzati e frammentato l'offerta, in modo da accontentare un po' tutti i palati. C'è da dire che rispetto a prima c'è molta più ricerca e quindi anche le tipologie di pomodoro offerte dalle case sementiere si sono frazionate di molto. Bene, abbiamo capito appunto questa vostra grande specializzazione. Senta, ma se un turista viene a Santa Margherita da voi, può visitare a Pula, può visitare appunto la vostra cooperativa? Può visitare i vostri campi? Certo, guardi, noi generalmente facciamo delle visite guidate. Innanzitutto mostriamo il nostro bellissimo territorio, facciamo delle visite proprio nelle aziende dove viene prodotto il pomodoro, dopodiché c'è una visita nello stabilimento. Inoltre poi c'è possibilità ovviamente di acquistare i nostri prodotti, non solo tra l'altro il pomodoro, ma una delle ultime novità che potrebbe anche interessare è che stiamo proponendo delle salse monovarietali. È vero che abbiamo 10 tipologie di pomodoro, ma per ogni tipologia di pomodoro siamo riusciti a fare una salsa monovarietale, in modo che possa essere abbinata innanzitutto a tutti i palati, ma anche a diversi tipi di piatti, un po' come si fa con il vino. Bene, allora il fattore può scegliere quello che vuole. Diciamo che si può fare una verticale di salse di pomodoro. Grazie a Gianni Picci della cooperativa Santa Margherita di Pula. E ora continuiamo questo viaggio, andiamo a Sant'Adi, dove c'è una cantina notissima, forse una di quelle cantine che hanno lanciato il vino sardo nel mondo. Buongiorno a Raffaele Cani della cantina Sant'Adi. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori. Buongiorno. Allora Cani, cosa mi racconta? Diciamo, la cantina procede sempre, si ingrandisce sempre, diventa sempre più grande e sempre più un po' il portabandiera del vino sardo. La ringrazio per queste attenzioni e queste espressioni nei nostri confronti. Certo, noi facciamo di tutto per mantenere alta la bandiera, peraltro di questi tempi abbastanza difficili, però ecco, ci rendiamo conto che un mercato sempre più attento, al quale non sfugge appunto chi lavora bene, chi propone dei prodotti corretti, sia per tipologia di prodotto, sia relativamente al prezzo. Senta Cani, voi avete puntato su un vitigno che io amo molto, che è il Carignano. Ecco, non è stato facile farlo conoscere, questo vitigno particolare del vostro territorio? Le dirò che la nostra, la cantina di Sant'Adi, nasce nel 60 e fino agli anni 80, voglio dire, è stata una cantina, un pochino una cooperativa, una cantina sociale, come si sente dire, è tipica del sud del sud d'Italia, della Sardegna in particolare. Però poi con l'arrivo di un nuovo consiglio di amministrazione capeggiato dall'attuale presidente Antonello Pilloni, che ininterrottamente ricopre questa carica dal 76, la cantina, ecco, c'è stato il momento di svolta, dove è stato redatto appunto un progetto di risanamento ed uno di lancio, se vogliamo. Poi abbiniamoci a questo l'incontro con il genio del vino, l'uomo del cosiddetto rinascimento del vino italiano, Giacomo Tacchis, che ci ha quasi adottato, ecco, quando ancora era, voglio dire, dipendente di azienda nazionale, facendoci comprendere qual era il potenziale del territorio e del Carignano in particolare, che è del vitigno qui di questa zona sud-occidentale della Sardegna, che lui già conosceva abbastanza bene perché evidentemente ne faceva un qualche utilizzo, ecco, nella sua carriera di grande enologo. Ecco, voi avete ottenuto grandissimi riconoscimenti appunto per alcuni vostri vini. Me ne vuol parlare un secondo appunto del vostro vino di punta? Ma guarda, il nostro vino bandiera rimane comunque il Terrebrune, sì, che dalla prima annata 84, commercializzata nell'88, ha incominciato a destare molto interesse, soprattutto in un segmento di mercato medio-alto, che era peraltro il mercato che noi guardavamo con maggiore attenzione, perché volevamo in qualche maniera entrare nel cosiddetto salotto buono del vino e non potevi entrarci con una cosetta. Ecco, era necessario, ecco, produrre un grande vino, produrre un qualcosa di veramente territoriale, autentico, che fosse la migliore espressione di un vitigno che noi stavamo scoprendo allora, non come, voglio dire, come esistenza, ma proporlo proprio e sdoganarlo da un vino, ecco, così chiamato di massa, un vino che è utilizzato in molte occasioni per dare spalla ad altri vini, e che è appunto questo il Carignano. Bene, i riconoscimenti sono stati, ecco, ultimo in termini di tempo, a parte quello di tre bicchieri e medaglie d'oro internazionali, ma quello dell'Oscar del vino italiano che ha ricevuto nel 2006 da Bibenda, quale miglior vino rosso italiano. Grazie a Raffaele Cani della cantina Sant'Adi, appunto. È stato un piacere, grazie a voi. A Sant'Adi. Bene, ora andiamo a Carloforte. Abbiamo parlato prima di tonno come prodotto e ora ne parliamo di tonno come cucinato. Andiamo da Secondo Borghero del ristorante Tonno di Corsa, appunto di Carloforte, e devo riconoscere a Secondo che tanti anni fa mi ha insegnato veramente un po' tutto sul tonno. Quindi grazie Secondo, e voglio chiederti come va quest'anno, come è andata la pesca quest'anno del tonno? Intanto buongiorno a tutti. Purtroppo non è andato un granché bene, non tanto per la qualità del prodotto quanto per la quantità e soprattutto perché i tonni sono molto piccoli. Ho capito. Senti, prima abbiamo sentito un produttore che ci ha raccontato tutti i vari tagli del tonno, un po' ci ha raccontato appunto cosa si può ottenere, e abbiamo parlato anche di ubelu che sarebbe un po' lo stomaco completo del tonno. Tu lo cucini molto bene, ci racconti un po' cos'è ubelu in questo allora, caso? Allora, ubelu praticamente praticamente è lo stomaco del tonno, è quello che si potrebbe definire una trippa in pratica. E l'uso in cucina avviene praticamente in due momenti. Poi il primo momento è quello fresco, che viene consumato adesso, e poi c'è un secondo momento che si mangia praticamente in autunno, che è quello secco disidratato. Si tratta, quello secco praticamente si tratta un po' come gli stoccafissi, cioè viene praticamente conservato nel sale, ma non sotto sale, poi viene fatto asciugare, e dopo, una volta fatto asciugare, si conserva per 4-5 mesi, quando si va a utilizzare si ridratta, si fa in tegame come si fanno le trippe, eccetera. Diciamo che questa è la cosa più interessante, è il modo di cucinarlo più interessante, perché ha un ventaglio di gusti, di sapori molto particolari in questa seconda edizione. Mentre nella parte, diciamo, come si fa adesso, in questo periodo che abbiamo il tonno fresco, praticamente viene fatto fresco. Cioè viene prima, si dà una leggera bollitura, in modo tale da intenerire un po', perché una parte abbastanza, essendo lo stomaco, come tutte le trippe, abbastanza coriaceo, eccetera. Poi si fa in tegame con il pomodoro fresco e le patate e la cipolla. Senti, un'ultima cosa volevo chiederti, un tuo parere. Diciamo che c'è stato un boom ormai del tonno crudo in giro un po', non solo in Italia ma in tutto il mondo. Tu non pensi che si sia un po' esagerato con questa sushimania? Come tu sai, io non ho mai fatto tonno crudo e mai farò tonno crudo. E, diciamo, ultimamente ho accettato un piccolo compromesso, che è un filetto, però non è completamente crudo, viene appena cotto. Però io sono del parere che bisogna, come si dice, bisogna cercare delle innovazioni, bisogna cercare in cucina, la cucina si deve innovare continuamente, però non dobbiamo perdere di vista le tradizioni. Per me il tonno va fatto nella maniera nostra, nella maniera italiana. Cioè le parti crude sono le parti che vengono fatte sotto sale, cioè presentati come salumi, che è un sciame, il cuore di tonno, tutte queste belle cose. E poi il tonno fresco va fatto cotto. Cotto. Bene, sì, anche perché per evitare certi tipi di pericolo, a cominciare dall'anisakis. Guarda Davide, io sono terrorizzato quando mi chiedono il tonno crudo, perché tra allergie, problemi vari, eccetera, io sono veramente terrorizzato e sconsiglio i clienti. Poi ci sono, come si dice, i maniaci e quelli, vabbè, ognuno può fare quello che vuole, però io sono molto preoccupato quando mi chiedono il tonno crudo. Bene, grazie a Secondo Borghero, ristorante Tonno di Corsa a Carloforte, e a presto. A presto, vi aspetto. Ciao Davide, ciao. Il gastronauta. Di nuovo buongiorno a chi si fosse messo così in ascolto solo in questo momento. Ebbene, stiamo parlando di un territorio molto particolare, pieno di suggestioni, non solo enogastronomiche, ma anche dal punto di vista paesaggistico e dal punto di vista anche geografico. Ebbene, il territorio è il Sulcis Iglesiente. E ora, appunto, andiamo a scoprire una chicca di questo territorio, che io tempo fa, un po' di anni fa, ho avuto il piacere di visitare. Andiamo a parlare del Geoparco Minerario. Buongiorno al direttore Luciano Otelli. Buongiorno a lei. Otelli, ci spiega cos'è questo Geoparco Minerario? Dunque, partiamo un attimino dal fatto che la Sardegna tutta, in particolare poi il Sulcis Iglesiente e il Guspinese, è un mosaico di situazioni geologiche molto complesse e di un mondo sotterraneo che è modellato da diversi fenomeni dati da una secolare attività mineraria. Ecco, quindi c'è una storia in questa evoluzione mineraria del nostro territorio, una storia dell'uomo che è una storia millenaria. Una storia millenaria, ed è il paesaggio racconta questa storia. Il punto di partenza è stata certamente la natura, ovvero questi tesori inestimabili della geologia e della biosfera, che sono ancora riconoscibili nelle forme, nei colori, nella geografia, che conferiscono a questo territorio una seduzione particolarmente seducente. A questi grandi tesori si associa un patrimonio altrettanto prezioso, che è appunto il risultato del lavoro dell'uomo, che per generazioni ha modellato queste montagne per generazioni, ha lavorato nel sottosuolo estraendone milioni di tonnellate di piombo, zinco, argento, rame, eccetera. Ecco, questa è essenzialmente fascino della nostra, del nostro territorio. Poi purtroppo sono arrivate le crisi, sono cambiate le condizioni ambientali e diciamo che questo patrimonio scavato dall'uomo in tempi così passati per poter appunto lavorare, poter anche sopravvivere, sicuramente sta diventando un qualcosa di turistico, diciamolo. Sì, praticamente questo mondo minerario che scompare, oltre a lasciare una storia, compresa storia, una lunga storia legata al conte Ugolino nel periodo medievale, di cui rimangono nel nostro territorio delle testimonianze forti, visibili, con dei documenti del Medioevo unici nel loro genere, ma lascia anche degli aspetti, dei grandi aspetti di un patrimonio notevolissimo di archeologia industriale, ecco. Che oggi è in via di recupero e valorizzazione. Si tratta di grandi opere di ingegneria, a volte uniche al mondo, come Porto Flavia, è un'opera che, se uno vuol vedere un'opera di un porto, di un particolare porto con scarico dei minerali direttamente sulle navi, un porto realizzato all'interno di una montagna, sì, per caricare direttamente i minerali sulle navi, deve venire nel nostro territorio. Ecco, non esiste un'altra, sì, e io lo consiglio, sì, perché l'ho visto e devo dire veramente che è un qualcosa di spettacolare. Senta Otelli, volevo chiederle, cosa è possibile visitare per un turista oggi? Sono diversi i siti visitabili. Guardi, ci sono diverse gallerie in cui è possibile vedere tutti gli aspetti minerari, cioè quella che è stata veramente l'opera dell'uomo, lo scavo dei pozzi, attrezzati con particolari ascensori chiamati gabbie con cui si va in profondità. Praticamente una miniera è come un grande palazzo, solo che ogni palazzo ha i piani ogni 3 metri e ad ogni piano l'ascensore si collega a 4, 6, 8 appartamenti. In una miniera i piani sono ogni 25-30 metri e questo ascensore li collega sino a profondità di 5, 6, 700 metri, parecchi metri, parecchie centinaia di metri sotto il livello del mare addirittura. Certo, certo. Bene, io ringrazio Luciano Otelli, direttore del Geoparco Minerario, e invito cari gastronauti ad andare a visitare queste cose perché veramente sono molto ma molto intriganti e interessanti. Grazie, grazie Otelli. Grazie a voi per l'attenzione. Grazie, e ora andiamo a Teulada, andiamo alla cooperativa Pescatori di San Giuseppe dal presidente Pietro Paolo Di Giovanni. Buongiorno Di Giovanni. Buongiorno dottore, buongiorno. Io so che lei produce la bottarga, producete la bottarga, vero? Sì, abbiamo la laguna di Portopino, che sono 500 ettari di laguna e produciamo biologica al 1000 per 1000, cioè per non dire al 100%. Senta, produciamo soprattutto la bottarga nostra, che è un po' pregiata. Ecco. Ci dice come si produce questa bottarga? Perché molta gente magari la mangia, ma non sa come è stata prodotta. Allora, la bottarga intanto, vabbè, è un prodotto naturale, sono le uova del pesce, ecco, le uova del cefalo, del mugine, che nasce, che cresce in laguna e poi quando l'uovo è pronto per depositare le uova, allora in quel momento diventa bottarga, cioè è abbastanza, è l'uovo proprio del cefalo. Qui noi è tutta pesca naturale, è il cefalo che entra dal mare, piccoletto, poi in laguna cresce e quando è adulto che deve andare a depositare le uova, allora torna a uscire in mare, ma quando riesce in mare adulto ci abbiamo, diciamo, il passaggio obbligato dove c'è la camera di cattura, chiamiamola così, ecco, i lavorieri, per specificare meglio come il suo dialetto, i lavorieri, dove lì entra il pesce e da lì noi lo peschiamo, si taglia, si toglie l'uovo, si mette sotto sale 2-3 ore, poi si mette a asciugare e la bottarga è pronta, dopo 5-6 giorni è pronta a mangiare. Solo che la nostra bottarga ha una particolarità un po' diversa di tutti gli altri stagni della Sardegna. Noi qui nel Sulcisi, come sapete, visto che stava parlando di geominerario, siamo anche anche abbiamo la questione delle saline, che è un'industria mineraria. E noi come Laguna siamo le prime vasche di evaporazione della salina di Sant'Antioco. Siccome essendo una prime vasche di evaporazione è acqua salata, è acqua di mare, cioè non ci sono emissioni di acque dolci tipo torrenti e altre cose, no, non esistono assolutamente. Nessuna forma di inquinamento assolutamente, anzi addirittura abbiamo la laguna piena di pinne nobilis, le nacchere, non so se le conosci, sì. Dobbiamo farle classificare, perché fra poco partiremo anche con le ostriche, perché le acque sono purissime. Ecco, essendo un'acqua salata, giustamente il pesce è un prodotto salato, e la botariga è un pesce, cioè da un pesce salato, perché se tutte le botariche che fanno negli altri stagni dove ci sono le emissioni di acqua dolce, non è mai una botariga come può essere quella proprio pura di acqua di mare, perché la nostra è acqua di mare salata. Bene. La botarica si asciuga subito, dopo 4-5 giorni è pronta a mangiare, si mette in bocca, si squaglia come una caramella, ecco, ed è una cosa pregiatissima. Adesso stiamo cercando di riprodurre al massimo i riproduttori per aumentare la produttività, perché purtroppo... Senta Di Giovanni, speriamo che le uova siano sempre di quello stagno, anche se si aumenta la produttività. Tranquillo, lo proteggiamo, lo combattiamo con tutte le nostre forze. Va bene, perché di taroccato di bottarga ce n'è molto. Grazie Di Giovanni della Pescatore San... Vi aspetto a fare un servizio qui da noi per mostrare proprio il valore dello stagno di Portopino. Bene, grazie Di Giovanni, Cooperativa Pescatori San Giuseppe di Teulada. Bene, ora torniamo a Sant'Adi. Abbiamo sentito la cantina, ma ora andiamo dal sindaco di Sant'Adi, Cristiano Errio. Buongiorno. Buongiorno Davide, buongiorno. Allora, perché un turista deve venire nel territorio di Sant'Adi? Cosa c'è così di affascinante, Cristiano? Sant'Adi è un paese con un paesaggio, una campagna che non ha nulla da invidiare dal mio punto di vista, le migliori campagne toscane, insomma, una campagna costellata di migliaia di olivi centenari, con una particolarità urbanistica, cioè gli stazzi, che dalle nostre parti si chiamano Medaus o Furia Drosius. Sant'Adi ne ha 40, un po' sul modello gallurese, ecco, solo che là sono fatti di granito, da noi sono fatti i mattoni di paglia e fango, ma hanno una particolarità costruttiva molto, molto bella. Sant'Adi è un paese di identità, è una città del vino, il famoso Carignano in gran parte viene prodotto nel nostro territorio, c'è la cantina di Sant'Adi molto conosciuta. Poi anche l'olio, se non erro. Assolutamente sì, c'è un ottimo olio con delle cultivar particolari, ogni anno si fa una manifestazione, il Paniolo in Frantoio, il Girolio d'Italia, in autunno con l'olio nuovo e con la presenza di migliaia di turisti. C'è una tradizione gastronomica ugualmente importantissima, una parte considerevole delle produzioni tradizionali e tipiche della Sardegna, anche di pane, di dolci, di miele, di formaggi, vengono tutti quanti prodotti. Quindi insomma una vacanza enogastronomica, una vacanza che punta anche ad approfondire la conoscenza dei siti archeologici. C'è una tradizione e la disponibilità di notevoli di siti archeologici di notevole importanza, di epoca prenuragica, nuragica, fenicio-punica, romana e bizantina, tra l'altro anche con una chicca, con degli studi recenti che hanno dimostrato che già 1800 anni prima di Cristo, quindi 3800 anni fa, sono stati trovati dei semi di vitis vinifera, cioè significa che i nostri antenati già allora avevano a cuore di coltivare e di curare le viti che sono stati appunto ritrovati in delle grotte nel nostro territorio, Vestigia punica, vestigia romane e tantissime altre cose. Cristiano, oltre ad essere un ottimo sindaco, mi sembra che tu sia anche un ottimo PR del tuo territorio, come giusto che lo sia un sindaco. Credo che tu mi hai convinto a tornare a Sant'Adi, ma penso anche molti nostri radioascoltatori. Grazie Cristiano, grazie, a presto. Mille. Grazie, a presto. Il gastronauta. Eccoci di nuovo in movimento in questo bellissimo territorio del Sulcis Iglesiente, dove abbiamo sentito parlare di pesce, abbiamo sentito parlare di pomodori, abbiamo sentito parlare di posti bellissimi nel geoparco minerario e poi ancora di Bottarga. Bene, ora torniamo a parlare di vino, andiamo a Santa Margherita di Pula, alle cantine feudi della Medusa. Buongiorno a Francesco Siclari. Buongiorno dottore. Volevo chiederle, Siclari, lei ha fatto un grosso investimento in questo territorio, perché? Veramente dotato e così vocato al grande vino? Ma io direi proprio di sì, io l'investimento l'abbiamo fatto sia per motivi sentimentali, perché conosco questo territorio dal 62, ma anche perché riteniamo che sia estremamente vocato. Noi abbiamo questa azienda a una distanza dal mare di 700 metri, e si estende poi per 47 ettari fino ai piedi della collina, che immediatamente si impenna a 1000 metri, quindi c'è un microclima, una escursione termica molto interessante. Ecco, infatti voi non solo producete Carignano come diciamo altre aziende del territorio, ma avete così vi siete allargati anche su altri vitigni. Sì, noi ci siamo allargati su un vitigno in particolare, devo dire, che voglio sottolineare, che è quello degli Cagnulari. Sì. Il Cagnulari, che è un prodotto di origine del nord della Sardegna, noi l'abbiamo impiantato qui da noi, ci dà un prodotto molto interessante, con questo facciamo il Crisaore, oltre che essere il 50% del nostro vino di punta, il Gerione. Ecco, voi siete a 700 metri dal mare, quindi sicuramente diciamo che le brezze influiscono non poco sulla produzione di vino. Assolutamente sì. Noi siamo anche produttori di Chardonnay, e tra l'altro i terreni sono quasi tutti di granito rosa in disfacimento, quindi molto minerali. E non avete, visto che sono appunto terreni molto particolari, non avete mai tentato il vermentino? No, ha ragione, non abbiamo tentato il vermentino, ma le dico per quale ragione. Noi il vermentino lo facciamo e crediamo anche buono. Abbiamo appreso in affitto proprio a Usini, a 410 metri di altezza. Sì. Sul territorio di Lusa abbiamo preso circa 10 ettari in gestione praticamente, e questo ci consente di avere un vermentino da terreno calcareo che varrebbe la pena di andare a vedere questi terreni, perché sono conchiglie e gesso come champagne. Ah, quindi Usini infatti è abbastanza noto, sì, è vero, si è sviluppato in questi anni. Quindi diciamo una gamma completa di vini. Una gamma completa in cui abbiamo anche la presenza di alcuni internazionali come il Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. Bene. Io la ringrazio, grazie a Francesco Siclari delle cantine feudi della Medusa di Santa grazie Margherita di Pula. Continuiamo questo viaggio in questo territorio e ora andiamo a Carloforte, andiamo alla Tonnara Ligure Sarda ad Andrea Greco. Buongiorno Greco. Buongiorno a tutti. Allora, com'è andata quest'anno la stagione del tonno? Con i problemi che abbiamo con le quote, perché rispetto all'anno precedente praticamente c'è stata dimezzata la quota di pescato, e quindi ovviamente ci siamo dovuti attenere a questo limite che ci è stato imposto dalla comunità europea e poi dalla ripartizione interna applicata all'Italia, però diciamo che sopravviviamo, resistiamo. Senta Andrea, ma io sono sempre polemico con le autorità, specialmente con l'Unione Europea, per questi così sull'Italia che non c'è mai un occhio di riguardo, perché sicuramente sono meno attenti sulla pesca in Spagna di tonno. Certamente, ma guardi, il problema grosso di questa cosa è che Noi siamo un sistema di pesca molto antico, perché se lei pensa che sono 4 secoli che si esercita in Sardegna questo tipo di pesca. Finché c'è stato questo sistema di pesca, nel Mediterraneo sono state calate più di 300 tonnare. Il tonno abbondava, non c'è mai stato problema di risorse. In 20 anni, da quando hanno inventato il sistema a circuizione, si è messa in pericolo la specie del tonno rosso, che ha una capacità riproduttiva enorme. La comunità europea che cosa ha fatto? Invece di intervenire su chi ha creato il problema, è intervenuta su tutti. Tenga presente che noi ormai nel Mediterraneo siamo gli unici impianti di tonnara fissa rimasti, perché gli altri 300 hanno tutti chiuso. Per cui invece di tenerci come una particolarità, un fiore all'occhiello, perché comunque siamo legati al territorio da secoli, noi facciamo la pesca negli stessi impianti dove si faceva sin dal 700, e le stesse poste, non abbiamo cambiato nulla, le stesse tradizioni, cioè manteniamo viva una cultura del territorio che va avanti da secoli. Invece ci penalizzano, hanno dato una quota a ogni singola barca, questa in ripartizione in Italia, una quota alle barche di circuizione superiore alla nostra, che abbiamo il doppio del personale. Senta Greco, volevo chiedere un'altra cosa un po' così polemica da parte mia, ma si può distinguere il taroccamento del tonno rosso quando ci servono un tonno di pinne gialle? Si può distinguere, ma se è fatto bene è difficile per il consumatore. Perché ormai queste colorazioni che fanno o con barbabietola o con anidride carbonica danno un colore molto simile a quello del tonno rosso. La differenza uno la deve vedere nella fascia muscolare, cioè il pinna gialla ha una fascia muscolare più che si sfalda di più, molto più tenera, e comunque quando lo taglia perde meno sangue rispetto al tonno rosso, che in ogni caso, anche quando viene lavorato per essere mangiato, deve avere sempre una certa perdita di sangue come il manzo. Senta, voglio che dia un ultimo consiglio ai nostri radioascoltatori, visto anche il boom che ha avuto in questi ultimi 7-8 anni il tonno crudo, cioè di fare attenzione quando lo ordinano in un ristorante, perché secondo me oggi bisogna stare molto ma molto attenti, non solo sul tonno ma anche su altri pesci. Lei cosa consiglia di fare se uno si reca al ristorante e vede tonno rosso crudo? Ma intanto, secondo me, dovrebbero dire bene chiaramente la zona di provenienza del pescato nel ristorante, chiedere la zona di provenienza del pescato. E soprattutto essere un attimo critici in alcuni periodi, in alcune stagioni, quando mettono del tonno fresco, tipo in dicembre, gennaio o febbraio, che sono stagioni di pesca chiusa, cercare di capire da dove, chiedere al ristoratore da dove proviene questo tonno. Se posso aggiungere ancora una cosa, perché noi oltre che pescatori siamo anche produttori di una piccola quantità di tonno in scatola che realizziamo qui a Carloforte, perché anche qui c'è molta contraffazione, sì. Abbiamo fatto una battaglia contro questa contraffazione che è stata fatta sul tonno di Carloforte, e fortunatamente devo ringraziare l'autorità, la Guardia di Finanza, che ci ha seguito in questa nostra battaglia, è stata molto puntuale, molto attenta, di controllare, deve essere indicato sulla scatola il luogo di produzione, perché molti mettono solo il numero CE, ma poi è tonno che è prodotto in posti diversi o in Sicilia e viene venduto magari per tonno di Carloforte. Nulla contro la Sicilia, però se è tonno siciliano scrivete che è tonno siciliano. Senta, in quelle scatole in cui c'è scritto tonnara di Carloforte, è vostro? Per essere nostro ci deve essere scritto prodotto a Carloforte. Benissimo. Scriviamo sulla scatola prodotto nello stabilimento di Carloforte, che è la nostra particolarità, quella di fare questo prodotto di nicchia sul luogo di pesca. Noi siamo a 20 minuti dal luogo di pesca. Bene, grazie Andrea Greco della tonnara Ligure Sarda di Carloforte. Grazie mille. Grazie, a presto. Ora andiamo per l'ultima puntata a Sant'Antioco, andiamo alle cantine Sardus Pater da Marco Pinna, che è il direttore commerciale. Ebbene, diciamo che queste cantine hanno valorizzato molto il Carignano come vigneto. Buongiorno Pinna. Buongiorno. Ecco, negli ultimi anni abbiamo cominciato a conoscere un po' ovunque il Carignano. Per anni diciamo che era poco conosciuto come vitigno. Lo riscontrate anche voi? Beh sì, è una questione anche di numerica, cioè Anni fa erano poche, un'azienda sostanzialmente che parlava del carignano fuori dai confini territoriali, adesso invece le aziende sono aumentate, l'aumento della produzione ha fatto nascere una serie di interesse sul prodotto. E anche a livello qualitativo delle diverse aziende che producono carignano che si è innalzato, e questo ha dato la possibilità di ritrovare dei carignano sempre più premiati, sempre più presenti nei mercati extraregionali, internazionali. Senta Pinna, qual è, diciamo, il periodo migliore per bere il carignano? 3 anni, 2 anni, giovane? Il vantaggio del carignano è che è un vino con questi tannini morbidi, quindi ha un vantaggio veramente di facilità di beva anche quasi subito. Poi dipende da ogni azienda, si sceglie la propria strada. Noi personalmente facciamo uscire, oggi siamo in commercio con il base 2008 e la riserva 2007, però non storcere il naso se vedessi un 2009 in commercio come base e un 2008 come riserva. Siamo assolutamente in linea su quelli che sono le tipicità e la particolarità del carignano. Possiamo anche azzardare che un carignano giovane, appunto perché ha i tannini dolci, servito fresco, può essere abbinato al pesce? Ma assolutamente sì, io vivo in un'isola, Sant'Antioco, dove c'è un paradosso, nel senso che il vitigno che si è sempre coltivato, il vino che si è sempre prodotto è un vino rosso o rosato, ma l'isola come tale ha una cucina di mare e quindi il pesce fa da padrone, e nelle nostre tavole, quindi tradizione, si è sempre consumato il pesce con il rosso o con il rosato. Bene, quindi chiudiamo questa puntata, in questo viaggio nel Sulcis Iglesiente, con un abbinamento tonno e carignano servito fresco. Grazie a Marco Pinna. Arrivederci, buona giornata. Bene, un saluto da Davide Paolini, grazie a Paolo Corleoni in regia, Anita Panizza in redazione. Io vi do appuntamento domani per il riposo del guerriero alle 11.15 e ogni giorno alle 11.05 e alle 23.05 per la pillola quotidiana. Buona giornata a tutti.